zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Apposta per far scatenare Parenzo, lo fa, sceglie dei giorni particolari in cui sa che Parenzo è un po' nervoso, così lo fa irritare. Sto parlando del nostro amico Buonanno, che Parenzo chiama Good Ass. Oh. No, ma non sono nervoso per niente. No, però lui sceglie dei giorni, secondo me, in cui sa che tu ti puoi scatenare. E, insomma, è il solito show alla camera. Questa volta per dire che Renzi dice delle balle o dice delle stupidaggini o che vende fumo, si è messo con le bolle di sapone in aula. Ho visto. Sì, vabbè, ma non mi pare niente di particolare, no? Parenzo, no. Che dici? No, niente di particolare, figuriamoci. Ormai, ma chi gli scrive i testi? Cioè, visto che ormai è, come dire, un comico affermato, chi è il suo autore? Ma può darsi sia Cruciani, può darsi che sia io, eh? Beh, questo sarebbe veramente bestiale. Se fossi tu a suggerire le cose a Buonanno. No. Sentiamo, però faccio anche un referendum. Tra i due, quelli che sentirete, cioè tra Gianluca Buonanno, Lega Nord, che distribuisce bolle di sapone all'interno della Camera, e il presidente della Camera Boldrini, chi è il più simpatico? Dato che la Boldrini ha fatto un corso per migliorare la propria immagine. No, vedi, chi è che vi ispira più simpatia tra Buonanno? Sì, ma lascia perdere. Ma la politica è anche la corrida. Ma cosa c'è? Devi metterti in testa che la politica è anche questo. Questa centaglia l'ha fatto diventare questa roba. Ma falla finita. Ma tu vorresti un Parlamento fatto di professori, di gente seria? Dai, no, su. Professore, la gente dai, per bene, sì, ma che c'entra gente per bene? Perché tu a casa, gente seria per bene, perché senti, a casa tua tu vorresti qualcuno che fa questo a casa tua. Sentiamo Goodyear. È sostanzialmente una presa in giro tutto quello che il governo dice. Così come, mi permetta, signor Presidente, aver letto la sua intervista sulla stampa oggi dove parlava dei clandestini che devono venire qua in Italia, è secondo me un'altra presa in giro. Cioè, noi viviamo in un Parlamento dove alla fine chi racconta più palline, più palle, più funziona. Allora io le dico, signor Presidente, le palle che si vogliono raccontare. La smetta, intervengano i commessi. Vede le palline? Sono manifestazioni indegne. Sono le palline del governo Renzi queste, ha capito? La ringrazio. Sono le palle di un governo la ringrazio. Che non funziona, signor. La ringrazio. Allora. Sono manifestazioni indegne. Sono manifestazioni indegne. Intervengano i commessi. Intervengano i commessi. Dai, su, è insopportabile. Questa prosopopea è insopportabile. Ma lascialo fare, ma ha molto più effetto se uno lascia fare. No, stai. Comunque, se per te. Intervengano i commessi. Mi tagliate sta roba. Intervengano i commessi. Dai, su, intervenga i commessi. Se tu sei felice che a casa tua, anziché fare quello che dovrebbero fare, fanno le bolle, portano il pesce, la spigola. Cioè, se tu sei abituato. Ma basta ridurre i parlamentari. Ma un tasso di, come dire, di comicità, un tasso. Poi. Io direi di deficienza. No, ma tu stai dicendo che Buonanno è un deficiente. Sta dicendo semplicemente che Renzi racconta delle balle. Renzi racconta delle balle. Dice Buonanno. Dice Buonanno. Mancante. Vabbè. Senti, il senso latino, no, tu stai deficit. Dicendo che è un deficiente. Io sto dicendo. No, ma l'ho detto in senso latino. Ma io dico un'altra latino, cosa. No? Io dico un'altra cosa. Dico deficit, semplicemente. Deficit, vabbè, deficit, ho capito. Sì, vabbè, deficit. Ti sei messo a fare il filosofo. Chi se ne fotte? Allora, no, il problema mancante. Principale è un altro. È che lui sostiene che Renzi racconta balle, e invece di dire Renzi racconta balle, fa delle piazzate, delle sceneggiate, fa delle pièce teatrali, se vogliamo chiamarle così. È un modo di fare politica, appunto. Avvicinano le cose per cui incazzarsi sono altre, caro Parenzo, contro cui vorrei vederti tuonare come vecchi tempi. Per esempio, il fatto che la Sicilia abbia 16.000 fottutissimi dipendenti. 16.000 fottutissimi dipendenti, la regione Sicilia. 16.000 fottutissimi dipendenti, mentre il comune di Roma ne ha 63.000 in tutto. Il comune di Roma ha 63.000 dipendenti, tra dipendenti diretti e dipendenti delle cosiddette municipalizzate aziende. Ha 63.000 persone. 63.000. Dovrebbe, Roma dovrebbe essere uno specchio, dovrebbe essere perfetta, una città dove funziona tutto con 63.000 persone. Invece non funziona una mazza. La Sicilia ha 16.000 dipendenti, eppure cerca degli esperti di Facebook. Gli esperti di Facebook cercano. Hanno 16.000 dipendenti, la maggior parte dei quali raccomandati. Raccomandati. Tutti raccomandati, dal primo all'ultimo. Dal primo all'ultimo. Lo dico qui. Lo dico e lo riconfermo, dal primo all'ultimo, quasi tutti raccomandati, a parte rarissime eccezioni ovviamente, tutti raccomandati, messi lì dai politici negli anni, dalla mafia, eccetera, eccetera. Adesso cercano esperti di Facebook, capito? Beh, adesso raccomandati dalla mafia, questo non credo. Anche, però. Indirettamente, anche. Tu pensi che la mafia non abbia messo in Sicilia dei dipendenti pubblici, delle magari persone? Nel passato, ma qualcuno ha fatto anche un concorso pubblico. Ma dai, pubblico su, vabbè, dai. È tornato a parlare Berlusconi, dopo la defenestrazione dal Senato è tornato a parlare oggi Berlusconi e con una proposta francamente fuori tempo massimo, perché non ne parla nessuno e non ne parlerà nessuno, statene certi, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Ma noi vogliamo fare un grande passo in avanti. Chiediamo che venga presa in considerazione l'elezione diretta del Presidente della Repubblica con poteri di direzione politica. Giungono però le mille bolle blu, le vede intorno a me blu, le mille bolle blu. Oh, poi a un certo punto scherza con Razzi e dice fatti li cazzi tua. Beh, è il Berlusconi migliore, diciamo la verità, non quello che fa le proposte per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che non serve più a nulla perché, diciamo... No, non è che sia un argomento di discussione, no, in questa riforma. Spiegazione di Razzi. Gioia se vedo passeggiare. Ha detto scherzosamente fatti i cazzi tuoi, no? Siccome gli ho dato la mia maglietta, quello che Crozza ha pubblicizzato, diciamo, te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. Il presidente allora, apprezzato, sì, uomo è stato apprezzato dicendomi fatti i cazzi tuoi. Ecco. Abbiamo già un ospite, caro Parenzo, però io credo che sulla vicenda del cabobo italiano, quello che ha ammazzato una persona, eccetera, hai da dire qualcosa al segretario della Lega Salvini, il quale ieri ha scritto: un matto a Milano ha ucciso e ferito senza motivo. Non sarebbe opportuno riaprire strutture per curare malati di mente? Nella vicenda invece del cabobo nero si era espresso in modo diverso, vero? Io invece aggiungerei non soltanto un matto, perché anche cabobo era un matto, non vabbè, era allora... nero. Era matto, quindi dovrebbe dire un matto milanese, o capirne sì. se è bergamasco, sì, no? sì, o milanese sì. magari, che ne so io, eh? un matto ha coltellato una persona a Milano, ferendola, che cioè, è morta, tu dici due pesi e due misure, vabbè. Ma questo l'hanno fatto, lo fanno in continuazione. Cioè sfruttano gli assassini, dici, sfruttano gli assassini per scopi politici, quelli compiuti da gente extra comunità. Ma l'hanno fatto anche su Iara, anche sul, mi sono andato a vedere tutte le cose che hanno, Novi Ligure. Sì. Non ti ricordi più Novi Ligure? Sì, come no. Sì, come no. E perché non lo ricordi? Novi Ligure. Lo ricorderemo. Ma è con noi Salvatore Esposito. Buonasera. Buonasera. Come stai? Bene. Voi? Beh, ce la caviamo. Sai, la politica, la politica offre sempre, caro Salvatore, degli spunti. Salvatore Esposito è attore della serie Gomorra, ha interpretato Gennaro Savastano. Parenzo, tu hai visto tutto al primo giorno, mi hai detto questa è una roba esplosiva. Figlio del boss Don Pietro. Sì, sono andato lì alla prima di Sky a Roma, sì. Quando hanno fatto vedere i due. Io devo dire la verità, me la sono vista, caro Salvatore, me la sono vista di notte. notte e quasi tutta insieme, perché non avevo tempo di seguire le dirette su Sky, la 21, le cose così. Mi sono visto 2-3 episodi di seguito e sono rimasto fino alle 5 di notte con gli occhi fuori. Ma come hai fatto a dimagrire a un certo punto 20 kg? So che te l'hanno chiesto in tanti, eccetera, però è stata una cosa drammatica. Dillo a Parenzo, quando gli hai detto bisogno che c'è un po' di panzetta, ma deve dimagrire. Ma ti è piaciuta la serie? Ma da morire, devo dire la verità. Io sono, perché sono appassionato, al contrario di quelli che l'hanno criticata dicendo avete fatto vedere solamente il sangue, avete fatto vedere solamente gli omicidi, come al solito Napoli non raffigurata in questo modo, io la vedo come una fiction, devo dire la verità, non più di una fiction, oltre che è basata su fatti veri ovviamente e su cose accadute, e per cui io che sono affezionato al romanzo criminale mi sono ritrovato pure in Gomorra. Che ti devo dire, come hai fatto a perdere questi 20 kg? Beh, diciamo che grazie alla produzione che è Catleia, Sky, Fandango, mi hanno fatto girare la prima parte, cioè del primo Jenny, quella lì un po' più cicciottello, praticamente tutta all'inizio, poi per circa 2 mesi e mezzo sono stato fermo, e in quei 2 mesi e mezzo mi hanno affiancato un personal trainer e un nutrizionista e ho perso praticamente 20 kg. Ma tu come sei? Di tuo, come sei? Grasso, più o magro? No, non sono grasso, ma ho una corporatura robusta, avendo fatto pallanuoto. Sei più vicino al primo Jenny? No, al secondo. Ah, al secondo. Infatti ho messo una decina di chili per interpretare il primo Jenny, quello più cicciottello, e poi in totale ne ho persi 20 per interpretare il secondo. Capito, Parenzo? Ma vabbè, questo, sai, gli attori devono fare. Ma tu ogni tanto potresti chiedere qualche consiglio per perdere qualche chiletto? Ogni tanto c'hai quella panzetta un po' ingombrante. Sono magrissimo, no, ma volevo capire questo, perché la grande soddisfazione è che noi abbiamo venduto agli americani questo prodotto. Cioè, certo, è rarissimo, certo, che una produzione italiana venga addirittura venduta. Allora, ai però ti faccio americani. Subito, ti riporto subito, Gennaro. Sì, Gennaro, Salvatore, una critica. Una critica. Vai tranquillo. L'altro giorno, Giancarlo Dotto ha scritto una roba del genere, macabra macelleria, si esce da queste 12 puntate con l'idea che è facile ammazzare uno con un colpo di pistola alla tempia, eccetera eccetera, o no? Guarda, posso dirti una cosa, non so il caro Dotto se è mai stato in quelle zone, io praticamente ci sono nato e cresciuto, quindi per fortuna mia ho avuto alle spalle una famiglia forte che mi ha salvato, mi ha tenuto lontano da tutto ciò. Quello che raccontiamo nella serie praticamente in realtà sono fatti di cronaca realmente avvenuti, logicamente poi incorporati in una serie, in una finzione, in una rappresentazione che è quella della serie televisiva. Per cui è normale che ci sia macelleria, cioè è normale che ci sia, perché la facilità di ammazzare qualcuno è reale, è così. Ma perché è il male raccontato dal punto di vista del male, quindi non c'è una facilità, cioè i killer ammazzano con facilità, sì, questo è vero, e sfido chiunque a dire il contrario. Senti, ma tu quando parla un leghista, quando un leghista parla di Napoli, cosa pensi? Che siano imbecilli, che non conoscono, che sono ignoranti? No, in realtà io penso che non ci siano mai venuti, e la loro opinione è un'opinione spesso dettata da un qualcosa che loro pensano, ma che non hanno provato sulla loro pelle. Cioè Salvini, per esempio, che adesso è andato a Napoli e l'hanno un po' respinto, è diventato adesso un leader che vuole... ti piace come personaggio o no? Ma guarda, le sue idee non mi trovano molto d'accordo, però io sfiderei loro ad affidarsi meno a quella che è la cronaca, perché sai meglio di me che fa più effetto un omicidio a Napoli che un omicidio a Bologna, Parma o Brescia, per dirti. Quindi io li sfiderei a vivere sul territorio, ad avere a che fare con noi napoletani, che siamo tanta brava gente. Ma hanno fatto, scusa, quando Salvini è venuto a Napoli e alcuni lo volevano mandare via, anzi in parte ci sono riusciti, hanno fatto bene perché la Lega ha pregiudizio eccetera, oppure no? Ma non per il pregiudizio, per le cose che lui diceva probabilmente lo volevano mandare via, non quei cori. Bossi è venuto a Napoli, ha letto anche una poesia napoletana e nessuno l'ha mandato via ai tempi, quindi c'era la cosa, era quei cori su Napoli. La smetta, intervengano i commessi. A proposito di Napoli, caro David, ti voglio far ascoltare il nostro professor Luttuak, il quale dice una cosa incredibile, dice che pagare le tasse a Napoli è un sopruso, cioè per quello che ti offrono, per quello che è la città, per il modo in cui è ridotta la città di Napoli, non dice lui. Con i servizi offerti, esatto, e dunque certo. Dice pagare le tasse a Napoli è un vero e proprio sopruso. Sentiamo. Se io sarei a Napoli, dove c'è un municipio che trae soldi per pagare un'amministrazione che non fa quasi niente, io no, per me di pagare le tasse sarebbe un vero sopruso. L'unica cosa che a Napoli hanno fatto, che io sappia, hanno chiuso un paio di strade, hanno chiuso il lungomare, hanno chiuso perché qualcuno ha dei sensi di estetica in riguardo, senza nessuna analisi del traffico. Benito, lasciamo perdere la questione del lungomare, però lui dice insomma la città è ridotta in un tal modo che un napoletano che paga le tasse lo vede come un sopruso. Salvatore? No, vabbè, questo non mi trovo assolutamente d'accordo, perché le tasse bisogna pagarle. Io per la prima volta adesso, dopo la serie, sto pagando le tasse regolarmente. Una botta, ti arriverà una botta. Poi... Mi sta arrivando man mano, quindi diventate famosi poi dovete stare attenti, sai, il fisco comincia a individuarvi. Senti, ma io non capisco, c'è una seconda parte, sì, perché ovviamente sì, quella... assolutamente. Tuo padre Eva, ma l'avete già girata o no? No, assolutamente no, adesso in fase di scrittura. Sky e Cattleya hanno detto e hanno annunciato che ci sarà una seconda stagione, ma cioè, praticamente non ne posso parlare, non so nulla. No, vabbè, però ho capito. So che ci sarà l'ufficialità della anche visto il successo nazionale ed internazionale della serie, sì. I riscontri a livello... Guarda, se l'ho vista io che non guardo quasi una mazza, sei sicuro? E poi ti è piaciuta, quindi stiamo a posto. No, ma io sono un grande tifoso di queste serie qui, in particolare quando sono italiane, perché per esempio io le serie quelle americane, così non guardo mai niente di queste cose, ma le serie italiane quando sono fatte bene, sono fatte bene. Senti, ma chi accusa Saviano di aver fatto i denari? Di aver fatto i miliardi con questa roba qua. Su Gomorra alla fine ha fatto i soldi. Ho letto un sacco di critiche, ovviamente. Che dici tu? Guarda, io penso che chi parla troppo spesso è ignorante in materia. Roberto, a parte fare il suo lavoro, per te cos'è Roberto? Per me è un eroe. Un uomo, un giornalista che ha sacrificato la sua libertà per lottare per la gente che tutti i giorni lotta contro questo male che è la camorra, ma che può essere chiamato mafia, come si voglia, nel mondo altri nomi, ma è tutto un unico cancro che sta distruggendo la nostra città, la nostra terra. Ma il sindaco di Napoli ti piace o bisogna cambiare sindaco? La città è amministrata male. No. Di quello che pensi, che te frega tanto. No, ma figurati, mica mi faccio questi problemi. Appunto. Che cazzo. Nel senso De Magistris è una persona per bene, che sta lottando. Non so quanta libertà lui abbia per fare quello che vuole, anche perché poi... Ma tu l'hai votato? Sì. E lo rivoteresti? Dimmi la verità. Dipende da chi sono i concorrenti. Non lo rivoteresti. Senti, che hai votato adesso alle europee? Un po' di responsabilità, caro. Aspetta, caro, fammi sentire chi ha votato adesso alle europee. No, io alle europee non ho votato, anche perché non ero a Napoli, quindi non potevo votare. Se avessi potuto votare, avrei votato Renzi. Pure tu renziano? Sì. No, non sono un renziano, io sono per il nuovo, sono per i giovani. E alle politiche, alle politiche che hai votato? Alle politiche di quando? Di 2 anni fa? Sì, un anno fa. Avevo votato Grillo, un anno fa. Grillo. Grillo. Vedi i voti, vedi. E perché non l'hai più votato, per esempio? Perché non ha fatto niente? Perché, non mi sono rivisto in quello che aveva detto di fare. Ma più che altro i suoi, poi tutto il parapiglia che è successo all'interno del Movimento 5 Stelle. Ho voluto dare una possibilità a Renzi, io sono per le possibilità, mi deluderà pure Renzi. Però tu dici, Grillo è uno di quelli che ha, diciamo, dato una speranza, poi concretamente in questo anno ha fatto poco. Questa sì, è la... ma non so quanto sia stata colpa sua, però non mi sono risentito, cioè non mi sarei risentito di rivotarlo. Pare, dove stai? Volevo chiedere più che a Salvatore Esposito, a Jenny Savastano, no? C'è una responsabilità anche un po' dei napoletani, però, se la situazione a Napoli è così, oppure è soltanto della politica? Beh, qualcosa. Ma quando mai? Ma quando mai? Beh, un po' sì, dai. Si mi mette tutto quanto, ma che stai pazziando? Ma come te per me? Perché? Com'è? Perché noi teniamo l'arte, noi teniamo il panorama più bello di tutto il mondo, teniamo la pizza, teniamo il caffè. Ho capito. Ma quante città vanno fatti fatte, cioè, ma è stato pazziano. Vabbè, questo stai parlando del coso, stai parlando dell'estetica, eccetera, ma qualche responsabilità in questa situazione drammatica, tasse non pagate? Ma quale responsabilità? Noi non sappiamo niente. Ma qualcosa, no, voglio dire, cioè, allora, le tasse si pagano, cioè, le multe non si pagano a Napoli. Parenze, ma dai, tu fai. Ma io, non si pagano. Io sono chi ne multe, sono tutto multato. Appunto, pieno è una cosa, che tu poi le paghi è un'altra cosa. No, c'è un tasso di evasione pazzesca. Cioè, voglio dire, no, c'è un po' un lassismo generale, oppure sono solo luoghi comuni. Ma quando no, mai? No, ma quando mai? No, si pava tutte cose, si pavano le tasse, si pavano le multe, si pava. Ma Gomorre anche al nord? Gomorre ovunque. E anche al nord. Cioè, ovunque. Quei leghisti che dicono Gomorre, cioè dice la mafia ce l'avete là. Sì, ultimamente è proprio uscito questo sui fatti di cronaca, Expo, Venezia, si parla di... Se infatti confinano con Napoli e la Campania. Ma tu qualche camorrista vero l'hai conosciuto in gioventù? Certo l'ha conosciuto. Non posso dire, non faccio nomi, certo che da attore alcune esperienze di vita mia vissuta mi sono servite per creare il mio personaggio. Capito, va bene? Certo, quindi faccio pure parlare in italiano, hai visto? Ma sì che sai parlare in italiano, per forza, se hai fatto le scuole di recitazione. Sei, diciamo, uno fortunato tra quelli nati in quelle zone, fortunato. Sì, ma guarda, in realtà adesso torno un attimo serio e voglio rivolgere voglio dire a tutta la brava gente di quelle zone di stare vicini ai propri figli, perché troppo spesso non a causa loro sono abbandonati ad una realtà che li ingloba. Spero che lo Stato, che le autorità, i figli, uno mi scrive, l'unico che può estorcere a Giuseppe Cruciani il nome della ragazza con la sciarpa è Jenny Savastano. A parte che Jenny Savastano manco sa quali sono i miei amorazzi, le mie cose, che diavolo scrivete? No, è veramente, io so a chi è, però ma non come posso lo fare sai? Nomi non lo posso sai fare nomi. Cioè, lo sai, sai io chi è quella ragazza che ho incontrato a Sacile, sai il nome? Io faccio tutte cose. Ti abbraccio, ciao, a presto, ciao, ciao, ciao. Perché io dico le cose papale. Dire una cosa, scurnacchiato, perché sei uno scurnacchiato di prima categoria. Allora, la cosa veramente incredibile è che il presidente della Camera Boldrini abbia preso delle lezioni, abbia fatto un corso, si sia fatta dare delle lezioni, caro Parenzo, addirittura da Gad Lerner. Perché è antipatica? Beh, cioè, molti hanno detto farsi dare delle lezioni di simpatia da Gad Lerner è come, non so, è come se a me dessero, che ne so, un incarico all'UNICEF. Ecco, un incarico per, no? No, magari tu, come dire, presidente della Caritas, oppure sì, certo. No, sì, no, è come chiaro. Se volessero da me un corso di buone maniere all'Accademia. Ecco, di buone maniere, dai, esattamente. Su. Ironia a parte, non ci vedo nulla di strano. Cioè, Gad Lerner è straordinariamente, poi io non lo sopporto per un sacco di altre cose, è straordinariamente antipatico. Come ma si fa a dare lezioni? Sì, te. Ma no, ma in generale alla postura di persona antipatica, ma non lo sto dicendo come qualcosa di negativo. Poi, ovviamente, le cose che scrive ogni tanto per me sono deliranti. Però lascia perdere questa roba qui. Cioè, sto dicendo semplicemente che non è proprio un campione di simpatia, no? Cioè, non è proprio uno dice quello simpatico, no. Eppure la Boldrini va da Lerner. Per dire, guarda, sono antipatica, ma dai, su, sono antipatica, mi dai qualche lezione di simpatia? In cosa ho sbagliato Crozza nel rapporto? Cioè, ma perché agli italiani sta sul cazzo questo personaggio? Secondo te tu ti sei dato una risposta, perché la sta sulle palle? Intervengano i commessi. Cioè, se uno fa un sondaggio, vogliamo fare un sondaggio, vi sta più simpatico Buonanno, vi sto parlando di Buonanno o la Boldrini? Succederà che quelle quattro persone non c'è paragone, no? Non c'è paragone, dai. Chiamano, perché noi abbiamo quelli che ascoltano tantissime e bravissime persone. Quelli che chiamano, vabbè, alcuni. Ma questo tu è un razzismo, ma sei razzista. Ma no, ma io vado nel sei mezzo. Razzista. Noi abbiamo alcune persone agghiaccianti che telefonano. Vabbè. E chiaramente se lo chiedi a quelle, è evidente che quelle avranno. C'ho già il risultato del sondaggio. Ma il tema non è questo qui, però. Se ma permetti, non c'è nessun perché... tema. È il fatto di andare a fare un corso per migliorare la propria immagine. Ripeto, vabbè, ancora ma una volta. Sai, ma non serve. Ma vabbè, il presidente della Camera non è un posto dove rifarsi l'immagine. Basta con questa storia. Buona parte di questo sono sui banchi, è una stampa che è pronta ogni minuto a fare trovare che? L'inghippo alla l'inghippo. Signora Boldrini, l'inghippo. Che non è né tanto meglio né tanto peggio. L'inghippo, altri... c'è la colpa è della stampa. Io dico, no, stai dicendo delle cose, quando... ma intervenite, ammazzatelo questo qui, Parenzo, allora, per le cose che dice. La colpa dell'antipatia della Boldrini e della stampa. In economia dai, si chiama il bad wagon, cioè quando entri in una spirale negativa, dai, su, dai. Economisti che conosco, vabbè, senti, non me ne frega niente stanno. Degli economisti. Jazz, sentiamo Jazz, l'imitazione della Boldrini. Fate entrare la donna maltrattata. No, no, aspetti, no, aspetti, ma che fa? Allora, guarda, che venga, fa? Venga, venga, venga, su. Venga qua con me. Tra poco comincia la campagna elettorale. La foto con la donna maltrattata sono 10.000 voti senza. Ma che dice? No! Guardi l'espressione contrita e partecipe, no. Guardi. No, lasci perdere! No. A volte riesco anche a piangere. No, sa. No, ma togliamo... E noi siamo donne no. Più paura, non abbiamo. A proposito di Jazz e di Bizzarri, ho letto da qualche parte, credo su chi, ci sono delle foto, Oxford, mi si è fidanzato anche Bizzarri, è la beh, fine di tutto, c'è il fidanzamento di Luca Bizzarri, lui che è tenacemente single, è stato fino adesso tenacemente, pervicacemente single, beh è una mazzata, una mazzata terribile, devo dire, una mazzata terribile, mi merita si è fidanzato una riflessione pure, questo. Ma non merita una riflessione questo qua, signora Boldrini. No, c'è anche da dire un'altra cosa, che la presidenza della Camera porta sfiga, sì. Cioè tutti quelli che hanno fatto i presidenti della Camera, beh, insomma, gli ultimi. Sì, gli ultimi, beh, sì, però Casini si è, ha costruito. Che fine ha fatto Casini? Vabbè, però ha continuato a stare esco, lì. Se esco qui per strada a Prati, non lo riconosco per strada praticamente ormai. Sì, non, vabbè, però insomma. Cioè, negli ultimi anni chi è salito alla terza carica dello Stato? Guarda, Bertinotti. È bello che hanno ancora degli uffici questi signori qui, Credo che alcuni vabbè, abbiano ancora degli uffici. Questa è un'altra questione. Questi però signori hanno ancora fortuna. Degli uffici alla Camera, cioè soggiornano, ogni tanto entro alla Camera e hanno degli uffici. Perché io devo pagare gli uffici agli ex presidenti della Camera? Me lo vuoi spiegare per favore o no? Me lo vuoi spiegare beh, o no? Ma io, ma è evidente che perché che gli ex presidenti della Camera a un certo punto dicono grazie, sono stato qui 2, 3, 4, 5 anni, arrivederci e grazie, ci rivediamo in un'altra vita. No, uffici, prebende, segretari. Poi le cose sono cambiate, però ancora gli uffici ci sono. Io credo che Casini, ma a parte che Casini è deputato, cioè io credo che Fini, che adesso vuole tornare in politica, ha fatto pure uno spot per aver detto che ha finito con la politica, ma lasciamo perdere, Fini, abbia ancora un ufficio, abbia ancora un ufficio che paghiamo noi. TG3, va, prima che mi incazzo, TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Accelerazione sulla riforma del Senato, testo in aula il 3 luglio, Berlusconi incontro Boschi Romani per chiudere, da Grillo niente di serio. Via libera al decreto IRPEF, Selvo Tassima si divide, Vendola non è un avvicinamento al governo, Migliore si dimette da capogruppo. Ritardi nei pagamenti, l'Europa avvia una procedura di infrazione contro l'Italia e scontro tra il governo e il commissario Tajani, Padoan decisione incomprensibile. Per la seconda volta dopo l'arresto, il presunto assassino di Iliara non risponde alle domande del PM. Domani mattina l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP. In Iraq i miliziani e i jihadisti attaccano la più grande raffineria del paese. Se ne vanno le compagnie petrolifere occidentali. Il governo chiede i raid agli USA. Prima prova degli esami di maturità per 500.000 studenti. Le tracce del tema di italiano, Quasimodo, la grande guerra, l'Italia delle periferie di Renzo Piano. I mondiali di calcio in Brasile, stasera la Spagna si gioca tutto dopo la figuraccia con l'Olanda. Ultimi allenamenti degli azzurri in attesa del match con il Costa Rica. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. Padania bella e libera, guardavano. conservi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guardava. Ieri Parenzo ha definito Radio Padania Radio Odio. Non permettere al tiranno. Giusto al 2010, sì, mentre il corpo della signora Iara non era ancora stato trovato, dice: troppi stranieri, ecco i risultati. Ora, questi leghisti, sì, dovrebbero chiedere scusa, sì, scusa anzitutto alla famiglia Gambirasio, e poi ripetere ogni giorno a Radio Padania che il muratore che ha ucciso, diciamo ancora avrebbe, perché noi siamo garantiti, certo, avrebbe ucciso, al sì, 99.9%, è un signore di Bergamo. Loro ogni giorno dovrebbero aprire le loro trasmissioni di Radio Odio dicendo: chiediamo scusa. Hai detto che Radio Padania è Radio Odio? A Radio Odio. E allora? A Radio Odio. Allora? Servi di Roma fuori. Pellegrin, senti Pellegrin, scatenato, scatenato. Quello che combina il tuo grande capo, i 20 miliardi a fondo perduto, parlane, no? E il tuo capo, Squinzi, lo chiami e dici: ma allora questi 20 sono 20 o sono 30? I 40 milioni che il tuo gruppo editoriale ha sempre ricevuto per le spese di abbonamento, vogliamo parlarne o no? Visto che Radio Padania secondo te non deve ricevere nessuno, a parte che non li riceve proprio. Cruciani, uso anch'io le parole come le usa lui, no? Come fossero il manganello, questo signore, questo fascistello, no? È un modo fascista di usare, di alzare la voce per aggredire il prossimo. C'è un ascoltatore che si chiama Pagani, signor Pagani, che dice che è quello di Allah, Parenzo, quello di Allah. Senti. Senti, io ieri ho tentato di telefonare a Pidocchio. Ale. Non si può. No. Non hanno mai. Io ho tentato dalle 6:30, sono stato in ascolto, dalle 6:30 fino alle 8, poi non ce l'ho fatta più. Non hanno mai dato un numero, io non so che numero chiamare, no? Si recitano tutto, fanno le sceneggiate. Una notizia, quello con la faccia da stitico. Ieri era contentissimo. Cruciani. Io non ho la televisione. Lo stitico è quello più piccolo. È Parenzo che lo stitico. Allora, vedi che è l'espressione sofferente da uno che non riesce a liberarsi. Ecco, bene. Era felice ieri, però, non perché era riuscito a liberarsi, ma perché quella povera ragazza che è stata uccisa a Bergamo, in provincia di Bergamo, sì, è stato un italiano, bergamasco soprattutto. Il potere falso che ci spreme. Barin, la zanzara ci vuole far chiudere. Che ci ha reso schiavi. Stai parlando di quelli della zanzara, gli amici e nemici della zanzara. Ma sì, quel prodotto culturale che non so neanche da che parte possono uscire. Grazie caro, ti sentiamo un po' male. Comunque sì, un po' di masochismo c'è nel Semivarin. D'altronde quelli della zanzara ci hanno preso di mira e siamo l'ultima radio, Radio Padania è l'ultima radio che permette di entrare in diretta e senza filtro, cosa che non fa neppure Radio 24. E beh, Radio 24 ci vorrebbe far chiudere, chiaro, perché dice così rimango l'unica. Padania bella e libera. Guardava. Le zanzare. Sai che la zanzara è seguito in tutto il mondo e da Boston in America lo stanno adesso in diretta a sentire a noi. Allora, qualcuno prima o poi doveva avere il coraggio di dire una certa cosa. Ebbene, quell'uomo si chiama Vittorio Feltri, il quale, intervistato da Telebari, e sto parlando di Telebari, ne ha dette due nei confronti dei bimbi che cantano, delle trasmissioni che ospitano i bimbi che cantano. No, ma senti che spettacolare, spettacolare. Li ha chiamati quei nanetti orrendi che cantano. E io devo dire la verità, sono assolutamente d'accordo con Feltri. Ogni volta che accendo il televisore o vedo Papa Francesco o vedo i cuochi o vedo Renzi oppure quei nanetti orrendi, quei bambini che cantano diretti dalla signora Clerici. Trovo tutto abbastanza stucchevole, ma non nulla di personale, non ce l'ho con le persone, però insomma, se la televisione ci deve ammorbare sempre con le stesse facce che poi dicono sempre le stesse cose, è vero che la banalità richiede coraggio, ma a forza di banalità si sbadiglia. quei nanetti orrendi che cantano. Beh, sì. Ma chi c'è? Quelli sono senti, ah, ma che cavolo c'entra adesso? Ma sei proprio stupido nel senti, scusami, ma piuttosto attacchiamo i talk show che sono noiosissimi. Senti questa roba qui, spara, bisogna. Quelli fanno più del 20%. No, Dio, ma sei sempre lì attaccato, quelli fanno il 20 e quelli fanno il 18 e quelli fanno il 15 e quelli, ma chi se ne frega? Il punto non è questo. Sta dicendo che i bambini che cantano sono dei nanetti orrendi. Senti questa cosa qua. Ma io non lo condivido. E vabbè, non lo condividi, pazienza. Ma non perché hanno preso il 20%. Cosa c'entra? Io penso che i bambini dello zecchino d'oro intenerissero. Certo. Mentre questi che scimmiotano gli adulti rompono i coglioni, visto che già ce li rompono abbastanza. No, i cantanti quelli veri, cioè ci mancano anche quelli finti, piccoli, miniaturizzati, io non li reggo, mi viene voglia di sparare. Come diceva un sincero democratico, mi viene voglia di mettere la mano alla fondina. No, va bene. Già rompono i coglioni quando sono veri, figuriamoci guardarli in televisione quei nanetti orrendi. Vedi, non sono d'accordo sul fatto che rompono i coglioni. Effettivamente i bambini rompono i coglioni in generale, però qualcuno li sopporta, qualcuno li sopporta meno. Cioè, evidentemente Feltri non sopporta, ma questo è abbastanza noto, non sopporta bambini intorno a sé. Vabbè, questo ognuno fa quello che vuole. Mi verrebbe voglia di mettere mano alla pistola, dice, come disse un sincero democratico. Sono tempi duri, eh. Lo so, Vittorio, sono tempi duri. Fare. Senti quest'altra cosa di Feltri, sempre sui bambini, senti. Siamo alla finzione esasperata e questo è un po' infastidisce. Già i bambini rompono le scatole, parliamoci chiaro. Salutiamo tutti i bambini che ci seguono. I cani annoiano dopo un po', no? E se poi cantano anche, preferisco quelli che abbaiano. Spettacolare. Vabbè, Andrea Milano, Andrea. Sì, ecco. Dimmi. Beh, rispondendo al suo sondaggio, io non apprezzo la Boldrini perché è simpatica, perché non mi sarei mai permesso nemmeno di valutare la simpatia di Nilde Iotti o di Pietrincao, quindi sinceramente non valuto un presidente della Camera per la sua simpatia. Sono altri tempi, è lei tra l'altro che si sottopone a questa cosa qua. Nessuno le chiede di essere né antipatica né simpatica. È lei che fa, come lei, dire, si riunisce infatti in un casolare insieme a personaggi per rifarsi l'immagine, mica sono io. Sono perfettamente d'accordo con lei, cioè siamo nel mondo della finzione. Lei non è una nanetta ignobile, ma è una grandicella ignobile, cioè siamo tutti qua a fare il presentatore, capito? Cioè, siamo tutti a fare il simpaticone, e questo è il tema. No, ma non c'è dubbio che non c'è bisogno. No, ma io ho detto. Ma soprattutto il presidente della Camera non ha bisogno di avere un'immagine. Questo è il punto. Il presidente della Camera non dovrebbe avere un'immagine, perché avere un'immagine è un controsenso rispetto al presidente della Camera. A meno che uno non intenda quell'incarico come una sorta di, come dire, no, di ribalto, di piedistallo dove attraverso il quale farsi magari, no, una carriera, come di solito in Italia, perché questo è il punto, no? Giovanni da Campobasso, Giovanni. Buonasera Giuseppe. Dimmi. Il 26 maggio il signor Giuliano Ferrara ha dichiarato alla Zanzara, sì, che lui, per la gioia del PD che ha vinto le elezioni, si è fatto una bella marijuana con il 100. No, la cocaina era, la cocaina. Ma non era vero, Giuliano. Ma lui l'ha dichiarato, caro Giuseppe. Una volta che l'ha dichiarato, che c'è? Io pure posso dichiarare che mi sono fatto tre dosi di eroina, ma non è vero. No, non è vero. Come fai a dire che non è vero? Ma perché le è rimasto così impresso questa cosa qui, che è accaduta 15 giorni fa? Chi manomette le banconote commette un reato. Lui l'ha dichiarato alla Radio 24. Sì, alla Radio 24 alla Zanzara. Parenzo, chiami tu o chiamo io? Se vuoi chiamo io, Cioè, se vuoi chiamo io. Sono già partiti, diciamo. Dai, su, Giovanni, eccola qua, dai, su. L'ha dichiarato lui. E chi se ne frega se l'ha dichiarato lui? Stava scherzando, era una metà. Stato, chi di dovere lo deve mettere in gabbia a vita? Vabbè, in gabbia a vita, perché ha detto. Come va bene, va per un corno. Vabbè, ma lei è malato, cioè lei è malato di mente. Ma tanto per dare 180 euro, la gente muore di fame e chissà cosa farebbe per quella 100 euro, perché quella 100 euro che lui ha fatto quel sì. 100 euro, sì, certo, sì. Non quella 100, però vabbè. Allora? E allora un corno, allora dovrebbe andare in galera. Appunto. In galera, vabbè. Donato da Varese, adesso arrivano a Campobasso, arrivano un po' di ritardo, ma arrivano lo stesso. Donato da Varese, pochi minuti alla fine, sempre 3-2 per Olanda, 3-2 Olanda-Australia. Donato Varese. Devo parlare un po' con Renzi, il signorino. Chi? Renzi. Chi? Tu, Donato, devi parlare con Renzi? Renzo, sempre quello rimane. Ah, Parenzo Renzi. Parenzo Renzi, sì, ho capito. Allora? Ascolta un po', Parenzi. Dimmi, caro. Ascolta un po'. Ma, mamma mia, ascolta un po'. Dai, Donato, su. No, vorrei dire a Parenzo, ma se io vado in un paese arabo, sì. E qualora mi potessero anche accogliere, Sentiamo la sciocchezza madornale, avanti. No, ascolta a me, che se io tocco la mano alla lampadina si accende, almeno che sono nervoso. Avanti, se io vado in un paese che arriva, la sciocchezza, guarda che arriva tra un po'. Dai, ascolta a me, guarda qualche secondo quanto ci metto per arrivare. Ascolta, guarda quanto ci mette, attento. Ascolta a me, piccolo lurido. Lillipuziano assassino. Assassino. Occhio adesso che arriva. Occhio, se io senti. Se io vado in un paese arabo. Senti come cresce. Fallo parlare però. Se io vado in un paese arabo come clandestino, partecipate allora la parola clandestino, che cazzo è, un pezzo di merda? Che cos'è? Che cazzo è, un ectoplasma? Non concepisco nemmeno la parola clandestino. Che gente come te se la sono inventata. Io vado in un paese arabo. Tu pensa un po', se questi qua mi fanno entrare in una moschea, mi tirano via l'altare di Allah, no? L'altare di Maometto, e mettono un letto per farmi addormentare. Questa l'ha fatta la Chiesa Cattolica. Perché sei talmente ignorante che non esiste nessun altare di Allah. C'è Maometto. Vabbè, allora dai, forza. Ascolta a me, assassino. Se io entro in una moschea per andare a dormire, perché non so... Mi prendono, cammini in Egitto, in qualsiasi reato, mi ammazzano letteralmente. Beh, allora. Perché la tua ignoranza è talmente grande che non sai che nelle moschee si può anche dormire, siccome sei talmente ignorante. Ma non fanno certamente dormire un cristiano, pezzo di merda! Hai capito? È impazzito questo. Non fanno dormire un infedele. Talmente. Ma questo ignorante. Che vuol dire, Donato? Perché vuoi fare questo discorso su quelli che entrano in moschea, quelli che non è? Non ho capito bene, perché? Ma non devi capire, ignorante. Perché in Italia c'è stato alcuni preti che hanno messo a disposizione le chiese, hanno spostato gli altari per fare dormire anche i jihadisti, per fare dormire quelli che ci dovranno ammazzare, che vengono dalla Siria, ormai è partito da Oslo. Perché questi arabi sono andati a dominare la Svezia? Come cazzo non ve lo domandate? Perché sono andati in Svezia lì? Sei chiamati sotto zero. Scusa, ma che c'entra Parenzo in questo? Spiegami. No, ma da dove chiama questo qui? Perché per Parenzo che la Svezia si stracolmi di islamici, per lui, per questo assassino, come lui ce ne sono tante, perché a seguito vengono tanti criminali. Ma che c'entra, perché Parenzo assassino, scusa? Perché Parenzo dice che l'islamizzazione in Italia, che è in atto oramai da 20 anni, sì. È giusta ed è normale. Ma non ho mai detto una cosa simile. Per lui mezzo milione di case popolari regalate agli immigrati. Mezzo milione. Ma di che cosa ti fai tu? Milione di case. Per lui che gli arabi vengono qui in Italia e prendono a sassate i cittadini siracusani, a sassate, perché pretendono. Se io vado in un paese arabo e voglio pretendere qualcosa, mi tirano via le budella dallo stomaco. Ma farebbero bene anche in questo caso. Merda, lurido, schifoso, merda. Io non sono... Ma a casa va bene, la sua famiglia sta bene, sì. Ascoltami ancora. La sua famiglia come sta? Uomo di merda. Poi sta cosa. Bene la sua famiglia a adesso, casa? Adesso c'è quell'altro bolscevico lì di Dario. Guarda Prova, che ti arriva, ti fai un bel infarto in diretta. Ascolta, guarda come lo fai. Come ti innervosisci, Certo che se ne vuoi. Tu sei l'amico degli islamici, uomo di merda. Guarda come diventi nervoso. Che c'entra Dario Fo? Allora, Dario Fo, quell'altro pezzo di merda, quell'altro grandissimo pezzo di merda. Ma che c'entra? Perché quel grandissimo pezzo di merda, io ero bambino che lui criticava la chiesa, Bonifacio VIII, allora? Stava qui, non ha mai... Devi criticare un imam, quel figlio di puttana, devi criticare un imam. mamma su Rai 1, adesso va su Rai 1 grazie al comune, grazie a quell'assassino di Renzi. Devi andare su Rai 1 a criticare un criminale, a criticare un islamico. Deve, allora, quel porco cane maledetto, eccola, di Dario qua. Fo. Arriva, arriva. Il maledetto di Dario Fo arriva. Che va su Rai 1 a parlare di Papa Donato, Bergoglio. Arriva l'ambulanza! A ve le spiegate! Eccola qui! Domani inaugura, caro Parenzo, domani inaugura il Gay Village a Roma. Ma caro Davide, stava bene questo qua, però. Questo stava abbastanza male, abbastanza male. Domani inaugura grave, il Gay Village a Roma. Mia. Allora, io voglio che tu dici in questo momento, in questa puntata, voglio che tu dici chiaramente una cosa. Io andrò al Gay Village a Roma. Ma io dici? Sì, tu devi andare al Gay Village a Roma, certo. Cioè, perché non puoi andare al Gay Village a Roma? Non ho capito. Quando è? Da oggi? Da domani, domani inizia una grande kermesse, come sai, il Gay Village a Roma, che è un tempio storico della comunità. Ma non è un posto nel quale, però se serve vado. Ma vedi vedere, come se... sei, io quando sono a Roma le poche volte vado sempre al Gay Village. Ma un posto ma solo perché ti offrono da mangiare magari. Ma dai. Quale offrono da mangiare? Un posto straordinario dove c'è una umanità pazzesca. Ma no, ma quello sì, sicuro. Ma dove... se posso vado volentieri, che io la sera quando vado al cinema magari vado. Ma sì, è perché andare... ti fa schifo andare al Gay Village, secondo me. No, sì, tutt'altro, sì. Mi sono molto simpatici, se ho tempo vado volentieri. Ma mi sono simpatici, che... ma non è che ci sono solo gay, eccetera. C'è gente normale, c'è gente eterosessuale, c'è chiunque c'è. E che cos'è? Che è un bel ambiente. No, è un ambiente, meraviglioso. No. Vabbè, l'art director del Gay Village è Vladimir Luxuria. Ciao Vladi, come stai? Ciao, bene, grazie. Ah, art director del Gay Village, da quanti anni sei art director? Allora, sicuro. Questo è il secondo anno, perché l'anno scorso abbiamo fatto 200.000 presenze. Quindi è andata bene l'anno scorso, è andata bene. Riconfermata. Senti, ma è vero che voi adesso confermi questa cosa, perché la trovo eccezionale. Cioè, addirittura ci sono dei manifesti per le freccette con l'immagine di chi? Allora, abbiamo deciso di fare una sorta di Olimpiadi nostre, sì, una specie di giochi senza frontiere di nessun tipo, soprattutto sessuali, sì, in risposta invece alle Olimpiadi, quelle di Putin, sai, il mio, sì, grande amico. Tuo amico Putin, sì. Allora, inauguriamo i Gay Village Games. Tra questi Gay Village Games, oltre a esserci le partite di pallone, non quelle dei mondiali, ma di squadre di gay contro squadre di lesbiche. Come squadre di gay contro squadre di lesbiche? Non sì, ho capito. Facciamo gay, la partita di pallone gay contro lesbiche, sì, sì. Allora, no. Ma che partita è gay contro lesbiche? È chiaro che vincono. Due squadre, chi vince? Cioè, squadre, cioè partite di pallone gay lesbiche. Ah, gay contro lesbiche. Non miste, non miste. No, gay e i trans? Le trans hanno i loro giochi, ce l'hanno col lancio della borsetta. E poi ci sarà. Ma stai dicendo sul serio o no? Veramente? No, sul serio, ci sarà il lancio della borsetta e poi ci sarà il salto in alto col tubino stretto. Che anche questa è una cosa pazzesca, meraviglioso. E tra questi giochi abbiamo deciso di mettere tre sagome, due sono state già decise. Sì. L'altra la teniamo un po' in caldo, perché sai, può sempre uscire l'omofobo dell'ultima ora alla trasmissione della Zanzara, qualcuno che intervistate voi ti avrà subito la sua bella sagoma. Beh, l'avvocato, il professore bisogna mettere. Infatti, l'avvocato Taormina. Stai stand by, però aspettiamo se magari c'è qualcun altro che nel frattempo si distingue anche lui. Cioè, allora facci capire bene, a parte questi giochi meravigliosi, cioè, allora alle freccette la sagoma c'è di Putin, di Vladimir Putin, c'è la sagoma di Giovanardi con la gente che può tirare le freccette. Solo chi partecipa al gioco, però voglio dire, poiché noi abbiamo buon gusto, che Giovanardi non verrà penetrato, nel senso. Cioè? Per rispetto nostro, non per rispetto verso di lui, nel senso che le freccette non hanno la punta che penetra, ma hanno un morbido velcro di adesivo, per cui saranno delle carezze dolci, delle carezze. Queste belle sagome. Perché a te piacerebbe, secondo me tu hai un'idea su Giovanardi, che in fondo... Ma figurati. In fondo di che? No, non che ti piace Giovanardi, cioè che in fondo è un po' omosex, no? O no? No. No, spero davvero di no, perché sarebbe uno scredito sulla nostra categoria. No? Spero veramente di no. Anzi, se anche ci dovesse pensare, lo mando veramente. Ci sono le teorie riparative, no? Lo mando su. Ci sono, non credo, ci sono. Però non lo so. Non credo, come dice Razzi, non credo. Poi per quello che mi riguarda capisco tutte le perversioni, ma attrazioni verso Giovanardi, almeno questa perversione non ce l'ho. Vabbè, no. Perversione. Beh, pare... politici che avete invitato? Chi viene di politici di solito? Politici? Allora, politici veramente ne abbiamo pochi, perché oggi come oggi c'è più da aver paura a dichiararsi politico che gay, secondo me. Quindi, insomma, meno... Vabbè, ma non è vero, dai, adesso... Ah, vabbè, guarda la gente. Comunque, diciamo, noi abbiamo... Vabbè, ma se, restiamo a sta cosa delle freccette. Inviteremo anche Renzi in chiusura, perché no? Così ci viene a spiegare che tipo di disegno di legge vuole fare sulle unioni civili, perché cioè, no? Chissà se viene, chissà se viene. Potrebbe, cioè, facciamo questa, lanciamo questa proposta. Renzi, vieni al Gay Village a Roma, sì, a fare un confronto pubblico su questo disegno di legge che dice a settembre di voler presentare sulla... Che mi sembra positivo, adesso ne parleremo, perché Renzi è più avanti di altri, anche della, dei tuoi ex compagni di partito da questo punto di vista. Cioè, fa le cose in fretta, fa le cose in fretta. Speriamo che le faccia, questo è il problema. Senti una cosa, però... Quindi lo invitiamo alla chiusura, anzi ti do anche la data di chiusura. Sì, sì, così sì. Abbiamo proprio tutto, quindi il 13 settembre, ecco, lo invitiamo sabato 13 settembre alla nostra manifestazione. L'ho intervisto io, guarda, così gli chiediamo che cosa vuole Vladimir fare. Vladimir Luxuria intervista Renzi. Cosa vuoi fare davanti alla platea del Gay Village? Vabbè, vediamo, lanciamo questa proposta, vediamo come finisce. Oh. Io non ho capito, ma questi c'è anche Putin raffigurato, dunque la gente arriva là, cioè quelli che partecipano e lanciano le freccette addosso. Il terzo ancora non l'avete scelto. Secondo me l'avvocato Tormino ci potrebbe stare, l'avvocato. Per il momento è quello più accreditato. Gettonato. Però aspettiamo un attimo, perché sai, le sorprese non finiscono mai. Sono sicura che voi scoverete qualche altro gioiello da qualche altra parte. Beh, danzano come zanzare queste ombre. Perché il professore avvocato Carlo Taormina merita, forse da parte dei signori organizzatori del Gay Village a Roma, perché merita di essere raffigurato, no, Parenzo, in una immagine con le freccette che arrivano addosso? È un gioco, fanno bene, è un gioco, è uno scherno. Fanno bene. Giovanardi sicuramente si incazza quando sa che al Gay Village a Roma la sua immagine viene messa lì e qualcuno la può colpire con delle freccette, tipo bersaglio. Dirà sicuramente, dirà sicuramente che è una, qualcosa di violento, qualcosa di, no, qualcosa di che lo mette in una situazione in cui la gente, no, potrebbe minacciarlo, potrebbe attaccarlo. Certo, lui ne ha dette di tutti i colori sui gay, bisogna dirlo. Comunque, perché il professor avvocato Carlo Taormina merita che lo possono colpire con le freccette? Per le cose che ha detto qui alla Zanzara. Eccolo. Come si fa a scoprirlo prima? Ma che ne so, io penso di sì che si scopra. Insomma, cioè? Cioè che, che in qualche modo prima si potrebbe scoprire? Ma io penso che, siccome sono delle anomalie, diciamo così, genetiche. Anche fisiche, genetiche. Quindi. Fisiche. E dunque lei fisiche. Ma guardi lei, ma chi è la Parenzo follia che parla? E lei è ma come fai, Carlo, a dire anomalie fisiche? Scusami. Ma scusami. E quell'altro che non ti dice niente. È una cosa nazista, ma è Cruciani che non ti dice niente. Ma come anomalie fisiche? Guarda. Ma guarda, le migliaia di persone che ci ascoltano, che magari sono omosessuali, ma come si devono sentire se tu gli dici che hanno anche anomalie fisiche? Si debbono sentire che io ritengo che sono anormali. Che ritengo che sono anormali. E attorno dentro. I veri italiani non sono froci, questo è pacifico. Poi ci stanno alcuni che dirazzano, e pazienza. Va bene? Lampione, io vivo la mia gioventù. Ma come cresce? Cresce male, come fa a crescere bene, scusi? Abbia pazienza, non ha le due immagini, quella maschile e quella femminile, non ha il senso di quello che significa, secondo le regole della natura, che significa vivere un uomo e una donna. Dai, tu, appunto, fai uno schifo di merda che non finisce mai. È uno schifo, è uno schifo, un autentico schifo. Beh, vabbè, insomma, io sai, per froce e lesbiche sono sempre stato di una certa opinione, per cui... Ma io sarò bagato in testa, andato visto se è bagato in testa che è bagato in culo, scusi, tanto per parlare chi è. Beh, caro Vladimir, mi sembra che possa bastare per entrare, come dire, nel... Mi sta convincendo. Ti sto convincendo, Molti lo vogliono, alcuni lo vogliono portare in tribunale, lo sai, per quello che ha detto. No, io vorrei mettere due fotografie, una di Ricky Martin in costume e una di Carlo Taormina in costume, per vedere chi le anomalie fisiche, non dove stanno queste anomalie fisiche? Dici, se uno vede Ricky Martin, quale anomalie fisiche stava a parlare rispetto all'avvocato professore? E magari ti stupisce l'avvocato professore in costume, non credo. Boh, Però ma secondo te adesso, queste robe qui, no, dell'avvocato professore, sono delle robe da tribunale oppure bisogna lasciar perdere? Alcuni addirittura degli avvocati, un'associazione di avvocati omosessuali, che tra l'altro non capisco manco perché esistano l'associazione di avvocati transessuali e omosessuali, vabbè, lasciamo perdere, lo vogliono addirittura portare in tribunale perché ha detto che lui nel suo studio non vuole prendere nessun gay. Ma guarda, io uno come Carlo Dormina non ci perderei neanche tempo, mi sembra talmente fuori dal tempo, così anche questo livore, forse anche un po' fuori di testa, non lo so, forse la vecchiaia gli sta a far male, non lo so, mi sembra talmente una caricatura di se stesso che sinceramente io non perderei. Cioè ti sembra un po' malato, diciamo, da questo punto sì, di vista? Sì, sinceramente, cioè, ti dico proprio, perché il tipo di, io capisco anche uno che non è d'accordo su certi temi, no, se ne parla in maniera, vabbè, certo, è chiaro, ma uno che dice queste cose mi fa schifo, e quello gli viene proprio il sangue al cervello, c'è qualcosa, capito? E perché, capito? Non è che è perché appena sente parlare la parola gay, frocio, così va fuori di matto il professore, così va fuori di matto, cioè perde proprio il controllo, non so perché. Però sai, se uno si sente offeso fa bene a portarlo in tribunale, che ma devo no dire? Ma quale tribunale, ha ragione Vladimir, come te che gli ci piace sparare a me, ma no, ma almeno io mica condivido quello che dice il professore, no, tra l'altro mi sono mica tutti sono come te che gli piace, ma no, essere immerso nel fango. Ma che c'entra, ma perché devi sempre attribuire a me delle cose assurde? Io non ho detto solo tutti senti offeso, porteresti ma la non che ma offende, sì, ma dipende no, anche dalla persona, ovviamente. Dice Vladimir, quando dice queste cose è un po' fuori di testa, che vai a fare in tribunale con Carlo Dormina, poi quello ti pianta un casino, un avvocato, capito? Beh, vabbè, intanto comunque qualcuno potrebbe interpretare questa cosa delle freccette contro Giovanardi per qualcosa di violento, Vladimir, o no? Ma se, cioè, se non riusciamo neanche a scherzare, a vedere una cosa ludica, vuol dire che siamo veramente delle persone tristi. Tanto partiamo dal fatto che ci sono delle frecce molto più avvelenate in alcune parole che vengono dette, no, contro di noi. Quindi in confronto queste freccette, che poi ripeto non sono appuntite di metallo che penetrano, perché nessuno vuole penetrare Giovanardi, lo voglio ripetere. Perché, perché lo vuoi ripetere questa cosa, no, come un così mantra? Si toglie anche questa cosa della violenza. Nessuno al Gay Village, violato, facciamo questo annuncio, al Gay Village nessuno vuole penetrare Giovanardi, diciamolo. Nessuno. Beh, ma ce ne sarà qualcun amante del velcro biadesivo di queste, quindi non c'è nessun incitamento. Guarda, io sono sicuro che ti presento un gay che vuole stare con Giovanardi. Adesso prima o poi te lo presento. Davvero? Sì, sì. No, guarda, se lo trovi me lo devi portare al Gay Village, però lo metti là sul palco. Questo sì, vuole Giovanardi. Questo vuole Giovanardi. Vabbè, è una cosa pazzesca, dai, su. Comunque, caro Parenzo, Vladimir Luxuri ha votato per Tsipras. Però io dico una cosa: ma questa SEL, no? Questa SEL, ma ormai che ci sta a fare? Sciogliamo. Molti sono Correnzi ormai, alcuni deputati sono passati Correnzi, che hanno votato oggi il decreto dell'IRPEF Correnzi, pur dicendo siamo all'opposizione. Non sarebbe il caso di sciogliere, o no? Ma io, guarda, tu sei renziana, dai, sei renziana un po'. No, oggi come oggi ti posso dire, puoi essere d'accordo o non d'accordo con Renzi, ma non c'è un'alternativa credibile a Renzi. Chi c'è come alternativa credibile a Renzi? Grillo? Berlusconi? Alfano, la pulce Alfano con la tosse? Ma chi c'è? Per cui, secondo me, l'unica persona in questo momento da cui mi posso aspettare qualcosa, per me è Renzi. Quindi se c'è Il tuo leader oggi è Renzi, anche soprattutto dopo aver presentato questo no, dopo aver detto pubblicamente a settembre facciamo le unioni civili, che saranno esattamente come il matrimonio, tranne l'adozione, gli stessi diritti del matrimonio, o no? C'è una differenza, è questa, diciamo, cioè con la legge delle unioni civili alla tedesca di Renzi, una coppia gay che intende per esempio adottare un orfano in Africa non può farlo, rispetto per esempio al matrimonio, mentre per esempio può adottare, si chiama stepchild adoption, può adottare il figlio dell'altro se già ce l'ha, che comunque è un'apertura, perché comunque non è il traguardo che voglio io, però comunque è una tappa, secondo me, accettabile di questo. Ma tu adotteresti un bambino? No, so che fai delle adozioni a distanza, va bene. Io sì, ho fatto l'adozione a distanza. Ma lo adotteresti un bambino se fosse possibile? Guarda, io non so se te l'ho raccontato, io sono stato in Africa con l'UNICEF, ho visto i bambini del Mozambico che non hanno nessuno, hanno uno zio, non hanno un padre, che possono morire da un momento all'altro. Te ne saresti portato via uno? Te ne saresti Sinceramente sì, prendetemi a freccette, sì, nel senso che io in quel momento, quando ho visto gli occhi di questo bambino, e lui sperava che io me lo portassi via, mi si è mosso qualcosa dentro, non so se si chiama paternità, maternità, non me ne frega però niente, declinarlo sessualmente, io mi sarei preso preso cura di questo bambino. Mi punite per questo, mi criticate per questo, questo è quello che ho no, ma io sono d'accordo, figuriamo, su questa cosa qui sono d'accordo. No, sai magari che... chi si sente, no? No, chi sicuramente sente, qualcuno dirà è uno scandalo, Luxury non può adottare nessuno, perché, perché era uomo, era uomo, è ancora uomo fisicamente, ma che è, ma quello che appena si sveglia, chi riconosce, che cosa è, chi riconosce, uomo, donna, eccetera. Però il punto non è, il punto è questo, la cosa fondamentale, fondamentale, lo dovete capire voi che odiate queste cose, Parenzo pure è scettico, la cosa fondamentale è l'affetto, la cosa fondamentale è l'affetto, è l'amore che viene data a una persona, il sesso non c'entra nulla, uno si abitua a tutto, si abitua al fatto di avere due uomini, due donne, due uomini, una persona sola, l'importante è quello che si dà a una persona, cazzo. Infatti è così. Ma sono perfetto, perché non mi invitare? Io sono sicuro che questo bambino piccolo che mi guardava, sì, ma secondo me neanche gliene fregava un cazzo a lui sapere se ero maschio, femmina. Ma certo, quello che diceva datemi una medicina se c'ho la febbre, datemi un libro di scuola per mandarmi a scuola, questo che voleva questo bambino. Certo. E io mi sono sentita quasi in colpa a lasciarlo lì. Dopo io ho avuto anche una crisi di piazza. Se ci sente Adinolfi, se ci sente Adinolfi, se ci sente Adinolfi, se ci sente Adinolfi, ha detto che vuole fare una battaglia pazzesca sulle coppie contro il matrimonio di Renzi, contro l'idea di Renzi di parificare unioni civili e matrimoni. Ha trovato il mestiere pure lui, dai. Ormai. Che mestiere si è trovato? Dell'omofobo, ormai. Ah, dell'omofobo, dice. Sì, cioè, tu dici che ha preso sto percorso. Ma l'omofobo da sinistra, capito? Fa anche un po' più, capito? Radica, fa più figo, fa più figo. Non cioè, è vero, è un mestiere quello del reazionario. Vabbè, state dicendo che Adinolfi si è creato il mestiere di omofobo di sinistra, così, così trova spazio nelle trasmissioni. Certo, perché tanto omofobi a destra, sai quanti ce ne stanno? E quindi ha dato giustamente voce a una realtà che esiste, perché esiste, è inutile ce lo nascondiamo. Di quella parte di omofobi che stanno pure a sinistra e c'hanno pure loro la loro rappresentanza. Senti, ma dimmi la verità, adesso passando ad un altro argomento, ma a te, sto presidente della Camera che vuole rifarsi l'immagine che è una più o meno del tuo partito, non dico del tuo partito e tu non hai partito. Guarda, posso dirti una, ti prego, veramente, a parte che sono stata eletta come indipendente. No, vabbè, tuo partito intendevo così, dai. Io voglio essere Vladimir Luxuria, capito? Vabbè, ho capito, uno della tua... No, vabbè, infatti stavo aggiungendo, tu non hai partiti. Però sto presidente della Camera, Di Sel, che si rifà l'immagine, dice che la sua immagine è antipatica e va a fare una... coinvolge dei giornalisti, eccetera, per rifarsi l'immagine. Ma ti è simpatica a te sta signora Boldrini? Ma guarda, ci sono alcune cose con cui sono d'accordo. Dimmelo sinceramente, no. Dimmelo sinceramente. Ma guarda, io non è un mestiere di mistero di Stato. Quando ha fatto tutta quella crociata contro Miss Italia, io ho scritto, ho twittato, l'ho detto tutte le mani. Ho detto, ma insomma, la Presidente della Camera si va impicciata di Miss Italia, su un certo, diciamo così, a volte un po' moraleggiante, non so come dire. Moralisteggiante, sì, sì. Un po' sì, così, sì, questa sì. Cosa qui... poi insomma altre cose insomma però... altre cose quali, ma uno ti pare possibile che il Presidente della Camera bisogna di rifarsi l'immagine? Ma che bisogno di immagine si deve rifare il Presidente della Camera? Luxuria, che è una donna di spettacolo, uno a un certo punto dice vabbè, magari devo rifarmi l'immagine se è il caso, ma il Presidente della Camera non è uno si rifà l'immagine perché sono antipatica. Dai, fa parte della tradizione del Presidente della Camera. Adesso anche Fini si vuole rifare l'immagine come allenatore. Qualche virus che attraversa i presidenti e gli ex presidenti. Parenzo dice che è una sfiga e porta sfiga per il Presidente della Camera, fermi tutti. Ma davvero, però c'ha ragione, devo dire la verità, ultimamente ma scusami, ragione. Guarda Bertinotti. Bertinotti era Bertinotti che ha fatto 2 anni e poi si è ritirato. No, più che altro da quello scranno lì ha perso quella credibilità di leader della Rifondazione Comunista. Poi l'ha fatto anche bene il Presidente della Camera, io non lo critico per quello. Dico che porta proprio sfiga il ruolo. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa. È una cosa incredibile, veramente anche direi indegna, sì. La zanzara capricciosa. Allora, sempre con noi Vladimir Luxuria. Caro Parenzo, voglio chiedere a Vladimir una cosa. Sai che tra l'altro hai indovinato il risultato di Svizzera e sì di Svizzera, di Inghilterra e Italia, e dunque voglio chiedergli come finisce venerdì, perché siccome hai indovinato 2-1 per l'Italia, non so in che contesto, l'hai scritto su Twitter, l'hai detto agli amici tuoi, vabbè, insomma l'hai scritto, allora dimmi il risultato di venerdì così me lo gioco subito. No, quello si fa 2 ore prima, Ah, 2 ore prima, cosa, perché sennò la Luxuria non infezione. Polipo polla. Il polipo luxuria, il polipo luxuria. La purpa, perché sei purpo in siciliano. La purpa luxuria. Ma non era fidanzata una volta luxuria, Vladimir? Ma quando mai? No. Ma te eri fidanzata, no? Ma no, ci sono tanti uomini che hanno bisogno perché è solo uno. Senti, posso ringraziare una ragazza che si chiama Vetridente, che ha mandato un Twitter, l'ha mandato anche a te, con scritto anomalia fisica, ci ha messo una foto di... Sì, è vero, l'ho vista anch'io. Ho visto anch'io, ha messo una foto del professore accanto a quella di Ricky Martin. Grande. Parenzo, che stai zitto, non ho capito, che sta zitto Parenzo. Sto guardando. Ma guarda, non c'è bisogno di guardare, devi parlare, qui è la radio, non è che guardi, è la radio. Ma cioè, stavi parlando, è la radio, la radio. Però potresti mettere anche la gigantografia di Buonanno, quello della Lega. Bravi. Ecco appunto. Gigantografia è una parola grossa. Vabbè, la sa. Ah, perché è basso adesso pure te, però. Dai. No, vabbè, insomma. Vabbè, che tu sei alto, alto, però alto, alta com'è, per me è uguale. Cioè, sono un papavero. È un papavero, sono alti, alti. Anche tu devi venire, anche Village, Giuseppe. No, ma io vengo, Vladimir, se non mi invitate quando vengono. Ma che c'è bisogno dell'invito, tu c'hai l'invito open. No, lo so, invito open. Quando passo a Roma, quando è che ne inaugurate domani? No, per Roma. Noi inauguriamo domani, però... Ma invitami a qualche dibattito, che venga a farli a bere due birrette, sì, invitami a qualche dibattito di quelli tosti. Io sono contro la legge sull'omofobia, per esempio, sono a favore di tutto, adozione, sono contro la legge sull'omofobia, invitami a qualche dibattito e facciamo una roba seria. Ah, vabbè, così ne parliamo. Ma sì, sì, dai. Parenzo, tu non vieni, no? Hai paura di venire. A favore della legge sull'omofobia. Hai paura tu, hai paura. Ma di che? Di venire al Gay Village con me. Ma sono pieno di amici, li va a vieni al Gay Village con me, dai. Andiamo al Gay Village insieme. Certo, se posso vengo volentierissimo. Invitiamo anche il professore insieme a te. A proposito, c'è un'altra cosa. Il professore lo piglia una sassata, secondo me, al Gay Village. Vladimir, ma la Pascale, ne vogliamo parlare? Brava. Brava, che devo dire? No, io non c'ho chiusure. Meglio di molti di sinistra, dici? Brava, perché sono più coraggiosa. Perché ha detto le cose come stanno. Giustamente lei ha detto che è ora di fare comunque una legge. Sai, l'ha detta comunque. Ma come, perché l'ha detto? Me lo spieghi tu, Vladimir, perché l'ha detto? Non lo so, sai, a volte secondo me accadono anche qualcosa nella vita. Succede anche qualcosa nella vita che ti può far cambiare idea. A volte basta andare a cena con una coppia gay, per esempio, dici, no, che qualcuno ti presente, e capisci quanto è genuino questo sentimento, come tutti gli altri, che magari ti si può pure, se non sei proprio veramente granitico, decoccio, come si dice. Ma secondo me lei già aveva, non è una cosa che è stata convinta da qualcuno, cioè non è una, è una cosa che pensa lei. Oggi come oggi Forza Italia come partito è meno omofobo del nuovo centrodestra, perché i rappresentanti più omofobi... meglio Forza Italia, meglio Forza Italia del nuovo centrodestra, dici, non c'è, non c'è dubbio. Da questo punto di vista sì. Cioè sono passati tutti gli omofobi, sono passati tutti con Alfano, dici? A partire da Alfano, che una volta disse una cosa sui gay, non so se ti ricordi, no? E lui ha detto, ne ha detto, ma poi Giovanardi sta lì da nuovo centrodestra. Sì, Formigoni pure sta là. Formigoni e altri ancora. Però cioè, voglio dire una cosa. Di più nel nuovo centrodestra che non in Forza Italia, in fondo. Sì, ho detto. Sì, sì, quello sì, sì, quello sì. Ma io però continuo a pensare che ci sia qualcos'altro dietro questa cosa della Pascale, dietro questa apertura delle Pascale nei confronti del mondo gay, c'è qualcos'altro, ancora non sono riuscito a capire cosa, ma c'è qualcos'altro. Io sospetto che ci sia qualcos'altro, però poi mi sbaglierò. Ma, ma io credo che anche la stessa Marina Berlusconi abbia delle idee. Dici? No, quello non lo so, boh, non si è mai espressa così. Nel caso della Pascale, secondo me c'è qualcos'altro. Mi sbaglierò. Però ma che cosa? È inutile che butti il no, ma non sto buttando. Lei ha detto, dice, io mi sono sentita in varie situazioni, anche in una chiesa, mi sono sentita guardata con quella cosa un po' del giudizio, no? Come appunto tu... Sì, quello per i divorziati, però, per i divorziati. Quindi lei dice che questa cosa qui l'ha portata, diciamo, alla comprensione verso anche altre coppie, diciamo, di sì, sfidanti. Però in realtà c'è qualcosa... Questo adesso... è quello che ha detto lei, ovviamente. Come dire, se lei avesse delle particolari, come dire, no, delle cose, delle... Mettiamosi a bisex, no, che gli piacciono anche le donne, cioè gli piace, è fidanzato, come se gli piacciono anche le donne? Magari c'è questo dietro, non lo so, dico così, cioè non è mica un'offesa, no? Potrebbe essere, Vladimir, o no? Potrebbe essere, ma non potrebbe essere, perché purtroppo in Italia non è che se tu sei gay questo automaticamente ti porta a essere il nostro paladino, anzi spesso i nostri peggiori nemici sono anche certi gay un po' repressi. Dici? Sì. dici. Vabbè. Chi sarebbero per esempio Gary Pressi? Non lo so. Cioè, vabbè, dai. No. Dai, dimmi Gary Pressi, che ne so, cioè hai detto questa cosa qua, i gay repressi. Vabbè. Vladimir, a presto. Ciao, ciao. Grazie. Senti, ma il Pigneto che hai fatto? Che hai fatto dal balcone del Pigneto? Sei presa con gli spacciatori? Ho letto da qualche parte. Sì. Ma hai fatto bene? Hai fatto bene? Sì, in questo momento c'è una situazione un po' di spaccio esagerato e arrogante. Ma che spacciano? Violento. Che spacciano? Tutto? Tutto, droghe. Quindi niente, mi sono esposta in prima persona per insomma stare vicino a tutto il quartiere che vuole. Hai fatto il Giovanardi in questo caso? No, non c'entra niente, no, non c'entra niente la politica. C'entra sempre una questione di sicurezza, che credo che sia una questione né di destra né di sinistra, cioè poter vivere tranquilli in un posto senza che passa una donna col passeggino e qualcuno ti chiede vuoi la droga, che se gli rispondi di no ti aggrediscono pure. Ecco, questo non è un problema, secondo me questo va al di fuori della politica, una questione di barbarie che va assolutamente combattuta. Ma perché la gente non fa niente? Marino non fa niente lì? Perché non interviene qualcuno? Ecco, appunto, lo aspettiamo. Ciao, a presto. Ciao. Oh, Silvano Bergamo, Silvano. Sì. Dimmi, amico mio, dimmi. Sì, buonasera, niente, io la penso come il dottor Taormina riguardo i gay. Ecco, allora? Ecco, niente, vorrei che Paresta da partecipi e poi ci facciano sapere quanta benzina serve per fare una bella fiammata. Cioè, bella fiammata di cosa? Scusi Silvano, una bella fiammata di che? Tutti questi gay lì al Gay Village, facciamo un bel fuoco e facciamo un po' il fuoco purifica. Sì, il signor Silvano da Bergamo. Sì, Silvano. Sì. Bisogna fare arrosto tutte le persone del Gay Village a Roma. Beh, caro Silvano, ci può dare gentilmente. Qualcuno che nel passato lo ha fatto. Ascolta, diciamo, una cosa, fammi sentire, fai stare zitto con l'altro nano. Dimmi. Ieri sera diceva che quelli della Lega avevano le corna. Beh, sì, è vero, sì, andavano con le corna. Quelli della Lega avevano le corna, il problema è che lui ce le ha ancora. Chi lui? Vabbè, se lei ha Lì, ma che ne sa Silvano che Parenzo ha le corna, scusi? Comunista, lui e i suoi Ron e tutta la sua Ron è il cantante. Ma con tutti i problemi che c'è a Roma, sì, c'è bisogno del Gay Village, ma stiamo scherzando? Ma perché, scusi, non ho capito, qual è il problema? Ma qual è la relazione? Mi sembra una cosa fuori dal normale. Ha ragione Taormina, la penso proprio come lui. Cioè, ma Taormina non dice che bisogna buttare la benzina e bruciare, però, mandare... la benzina è un senso certo, nessuno andrà mai con della benzina. Ma l'ha detto lei tre secondi fa, Silvano. Ma noi non abbiamo bisogno di queste stronzate. Ma l'ha detto lei tre secondi fa. Certo che l'ho detto. E allora detto. Non si tiri indietro, lei vuole andare là a piccare il fuoco a Gay Pride. La segnalo alla polizia, la segnalo alla pubblica sicurezza, la segnalo. Segnalatevi voi alla polizia, segnalatevi voi, siete voi da segnalare, anzi, forse siete già segnalati. Ma in che senso siamo segnalati, scusi? Così, le stronzate che dite sono peggio di quello che ho detto io. Ma che vuol dire? Io non ho capito una cosa. Cioè... Allora, ma no, lei ha detto da Bergamo, non so se in provincia o Bergamo. Sì, dammi pure no, del tuo. Più che altro lì nelle montagne della Bergamasca bisognerebbe bere meno della Bassa. Ma scusi, lei quando incontra, quando se avesse un figlio omosessuale, che cosa farebbe? Ma ascolta una cosa. Se allora, lei avesse un figlo frocio, cosa farebbe? Ascolta, siamo allo stesso discorso. Ognuno nel quattro mura o nel privato può fare quello che vuole. E fino lì non c'è bisogno di andare in mezzo alle strade con i carri allegorici, con tutti questi travestimenti, ma lasciamoli fuori da tutto questa roba qua. Silvano, se lei avesse un figlio frocio, cosa farebbe? Ma sì, se avrei un figlio frocio certo me lo terrei, logico che me lo terrei. Ah beh, certo, beh, è logico, tutti beh, se lo terrebbero, è giusto che sia e così. Che, e che discorso farebbe? Evitiamo di dare spazio a, dare spazio, a questo sì, cavolo qua di che vada a lavorare sta lussuria, che vada a lavorare. Ma veramente lavora a modo ma suo, lavora. Che lavora, ma dove lavora? E che ma fa? Non ha mai lavorato. E che fa? Tua. E che fa secondo io sono 42 anni che lavoro, non lussuria. E che fa lussuria secondo lei? Secondo me sfrutta un po' le situazioni. Sfrutta le situazioni. Ma che vuol dire sfrutta le situazioni? Sta cavalcando il gay village. Ma che c'entra il gay village? Sta cavalcando. Un lavoro da fare, ma non lo sanno neanche loro. Non lo sanno nemmeno loro. Sfruttano le situazioni, no? Un po' di qua, senta, un po' di non ci abbiamo. Ma lei vive a stomaco pieno o stomaco vuoto in genere? Parenzo, taci. Giusto per capire. Per capire, taci. Perché. Con me non devi parlare, Parenzo. Ma quindi a stomaco vuoto? Tu devi, ma tu perché devi, non deve parlare con lei? Solo con i comunisti. Solo con i comunisti come te, con me non devi parlare. Ma io non ho le sue intenzioni di parlare con lei. Scusi, Silvano, lei che, no, che meno male, cosa meno ha male, votato alle elezioni? Tutto. Cosa ha votato alle elezioni? Alle elezioni ho votato quello che avevo voglia. No, cosa ha votato, Silvano? No, giusto il vino, provo a indovinare. Che ne so, la Lega? Bravo! Silvano da Bergamo! Ciao! Bravo! Ciao, Silvano! Bravo! Bravo! Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Allora, riferiscono fonti di agenzia che uno dei deputati europei appena eletti ha chiesto al funzionario italiano dell'Unione Europea che lo doveva registrare come si scrive Bruxelles. Ti giuro, uno dei deputati europei appena eletti ha chiesto al funzionario italiano che lo doveva registrare come si scrive Bruxelles. Ragazzi, amici miei, come si scrive? Che magari lui secondo me aveva intenzione di scrivere Bruxelles, tipo doppia S Bruxelles, magari con due L. Bruxelles. Dai, su. Arturo da Roma, Arturo. Senti. Dimmi. Ma io, scusami, io sono felice di averti ritrovato. Perché io, diciamo così, dicono che io sia il tuo padre naturale. Mi fa piacere che non sei frocio. E quindi sono orgoglioso di te, figlio mio. Ma perché dovresti essere mio padre naturale? Scusami, Arturo. Così dicono. Ma perché? Perché? Per quale motivo? Perché somigli a me. Sei svelto come me, sveglio come me, arzillo come me. E hanno detto: tu sei il padre naturale di quel ragazzo. E io sono fiero di te. Ma perché? Non ho capito. Perché tu non sei frocio, sei una persona. Solo che il 118 è sotto lì lo studio della radio, questa volta tocca a te essere preso. Ma io non ho capito bene, Arturo, non ho capito bene, perché sì, dovresti essere mio padre naturale? A parte che mio padre è deceduto all'incirca 6 anni fa, per cui... Mi somigli in tutto, in carattere, in tutto. Ma che ne sai tu? Che ne sai? E non sei frocio. Eh? E non sei un frocio, quindi sono... contento che tu non sei frocio, ecco. Che vuol dire che sei contento che io non sono frocio? Non ho capito. Il 118 è sotto lo studio della radio, perché a posto di chiamare il 118 ai poveri telespettatori, radioascoltatori, questa volta sta arrivando a te. Va bene? Vediamo. È a quell'amico tuo là che sta a fianco a te. Ma tu hai capito che vuole dire Arturo Parenzo? No? Totalmente nulla. Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda. Mi somigli in tutto, in carattere, in tutto, e non sei frocio. E non sei un frocio, quindi sono contento che tu non sei frocio, ecco. Ma questo veramente ha detto di essere sotto la radio? Ma uno dovrebbe chiedersi perché questa gente chiama, però no. Vabbè, questi qua chiamano perché sono straeccitati dal clima che crea la zanzara. Qual è il problema? Perché molto perché chiamano solo questi? Uno dovrebbe chiederselo. Ma no, non è vero che chiamano solo questi, non dire cazzate. Beh, una persona normale. Ma stai dicendo cazzate, dai. Una su. Persona normale si diverte e l'ascolta senza chiamare, ma non è che telefona. Ma questi qui sono. Perché vuoi impedire alla gente di chiamare? Io dico, guarda, veramente no, sei pazzo. Sì, cioè, ma questi no, ti faccio ridere con un'altra cosa. Michela. Ma chi te l'ha detto che sono poveri disadattati? Michela Biancofiore. Qui non è un disadattato questo cacchio. Ma non lo so. Normale, alcune sì, alcuni sì. Miei. Michela Biancofiore ha mandato un libro al Papa. Un libro al Papa in cui scrive tra l'altro che vorrebbe passeggiare sotto braccio con Papa Francesco per chiedergli e capire come si può avere ancora fiducia nell'uomo, perché la politica non è sbagliata o sporca in sé, anzi è l'arte più alta e nobile se professata con lealtà e dedizione alla gente, ma viaggia sulle gambe degli uomini, cioè vuole un incontro con il Papa perché vuole capire il motivo per il quale non c'è più fiducia nella politica. E poi vuole che il Papa le spieghi qualcosa su Alfano, in merito all'inatteso tradimento di Alfano nei confronti di Berlusconi. Cioè vuole chiedere due cose al Papa. Una sul perché la vocazione politica è così non è più forte. Cioè perché la gente non può vedere i politici in sostanza. E l'altra cosa che vuole chiedere è come mai Alfano ha tradito Berlusconi. Io ti giuro che se il Papa risponde questa volta mi incazzo sul serio, eh? Cioè se il Papa alza il telefono e chiama la Biancofiore, chiama la nostra amica Michela Biancofiore, mi incazzo, perché il Papa no, tutto suo, ma il Papa no. In Francia un 16enne rom accusato di furto è stato linciato. Adesso è in coma. Una spedizione punitiva contro un giovane rom ha scosso la Francia intera. Venerdì scorso, un gruppo di uomini incappucciati ha prelevato un ragazzo di origini rumene da una piccola baraccopoli nella periferia di Parigi, lo ha torturato e picchiato e poi lo ha abbandonato come uno straccio dentro un carrello della spesa a pochi passi dall'autostrada. Ma abbiamo con noi, beh, caro Parenzo, grande ritorno, Paolo Barnard. Buonasera. Buonasera, un cazzo. Ma perché buonasera un cazzo? Scusi, Barnard, la invitiamo, buonasera un cazzo, scusi. Bisogna smontare queste palle agghiaccianti che stiamo ascoltando in questi giorni. Ma quali sarebbero? Ho sentito l'associazione dell'Associazione Bancaria Italiana. Che ha fatto la in realtà è ABVI, Associazione Bancaria Vampiri Italiani. Vabbè. Questo è l'acronimo esatto dei tecnocrati delle banche. Ma ho capito, Barnard, però ma perché lei è partito così in lancia e resta contro l'associazione contro le banche, scusi? Devi tacere, tecnocrate della radio, golpista di Confindustria, sterco maleodorante di cane, decorticato cerebrale che produce soltanto boati gastrici. Ma scusi, ma perché se la prende con noi, scusi, Barnard? Non ho capito, perché? Tutto ciò è agghiacciante, la quantità industriale di stronzate che riesci a partorire, il denaro è un codice astratto che non ha alcun valore, ok? Ma che vuol dire? Ok, niente, ok. Ma perché? Parenzo taci, anello mancante tra l'uomo di Neanderthal e la dolce Uchessina. Siamo al tracollo economico, alla distruzione economica, alla disperazione. Siamo seriamente a rischio di deflazione e voi dite queste cose. Ma noi siamo qui a fare una trasmissione per divertirci. Stanno ammassando, ci stanno fracassando il cranio, ok? E tu, servo del potere bancario che genera devastazione, disgregazione, ci prendi per il culo, neonazista, criminale della comunicazione. Però scusi, okay? Barnard, lei è tornato, mi sembra, alla gabbia stasera, pure ci sarà la gabbia. Come mai è riuscito a riconciliarsi col signor Paragone? Che è successo? Cose che non devono assolutamente riguardarvi. Proprio voi me lo venite a chiedere, che siete servi del potere. Vabbè, siamo servi. Qua bisogna parlare, spiegare come si ristruttura il debito italiano. Ristrutturare il debito italiano non è come ristrutturare quello dell'Ecuador. Cioè la differenza tra scaricare un camion d'arance e una petroliera giapponese da 500 e forse anche da 600 metri, ok? Vabbè, d'accordo, okay, Barnard. Ok, un cavolo. Vabbè, grazie. Siete antiparlamentari, anticostituzionali. costituzionali ma, ed antidemocratici. Ma non è vero, vabbè, arrivederci, ma questo ogni volta sbrocca. Grazie. Fabio da Bergamo, Fabio. Dimmi. Ciao Giuseppe, ciao David. Ho bisogno di voi, due cose. Sì, intanto Sara Tommasi oggi in una tribunale di Napoli ha detto: ho partecipato alle feste di Arcore, almeno ad una decina, e con Silvio Berlusconi ho sempre avuto uno splendido rapporto professionale e personale. Poi ha detto di aver ricevuto e di aver avuto dei rapporti sessuali con Berlusconi, però mai a pagamento, però ha ricevuto dei gioielli in regalo. Beh, allora non è tanto a pagamento. E poi ha confessato di aver avuto una storia con Balotelli, ma questa è una storia abbastanza nota. Però la signora Tommasi dovrebbe capire che se uno poi regala gioielli, posto che la vicenda si sia chiusa con un regalo di gioielli e non con altre cose, diciamo, non è che uno rapporto gratis, no amica mia, non è gratis. Se tu scopi con uno e quello ti regala i gioielli, gratis non è, mi pare chiaro, no? Mi pare evidente, mi pare lampante. Vabbè, Fabio, allora? Ciao, ciao ancora a voi. Niente, io oggi, parlando con una collega, sì, io ho fatto scoprire la zanzara, perché sì, lei era ignora di tutta questa vabbè, cosa. È normale, cioè, no, ma cioè, non so come si faccia a essere, come dire, a non sapere della zanzara, però vabbè. Insomma, però ci sono, credimi, esistono. Ci sono pochi, ma ci sono pochi. Allora va sul sito, va su YouTube e vede Cruciani, folgorata, ma che figo, ma che bello, va come sta bene con la giacchettina, va. Purtroppo, parenzo, mi dispiace, non hai avuto lo stesso riscontro, però... Me ne farò una ragione, non ti preoccupare. Immagino. Questa è la cosa più facilita. La cosa più seria è che io sono di Bergamo, per quanto riguarda il caso di Gara. A me stanno. Ma aspetta, questa è una cosa seria, però, questa roba qua. Scusi, Fabio, questa sua collega, innanzitutto, è single, è sposata? Allora, è separata. Beh, questo è buono, questo è molto buono. Ma di tua coetanea, tra l'altro. Questo è ancora meglio, questo è ancora meglio, caro Fabio, okay? È ancora meglio. Ma possiamo dare a organizzare qualcosa? Parenzo, che dici? Possiamo organizzare. No, quindi è una vecchia questa, sostanzialmente. Ma ancora vecchia, c'ha 48 anni, che è vecchia, scusa, è ottima. Signora, è una gran donna, a stile, a classe, a gusto. Beh, una gran donna. Siamo al top, siamo al top. Cruciani è un gran figo. Vabbè, organizziamo qualcosa così di nascosto, tanto qui non però ci sente. Non riesco a convincerla a ascoltare la zanzara. Mi dice: ma che trasmissione è? E io mi sono scoperto che non riesco a definirvi. Cazzo, come faccio a definirvi? E ho detto: guarda, non è né l'assoluto né il relativo. Io so che senza zanzara non vado a dormire, giuro, non vi leggo il culo, che non me ne frega niente. No, beh, certo. Allora a volte vi spengo quando non vi sopporto più, giro canale. Beh, è normale. Quando è che non ci sopporto? Io mi spengo quando non mi sopporto più. Quando è che non ci sopporta più? Quando è che non ci sopporta più? Ma quando diventano troppi lunghi gli stessi discorsi, ah, che palle, io voglio cambiare. I froci. Cioè, in generale, dalla politica troppo lunghi alcune volte, sì, hai ragione. Questa idea è troppo lunga, dico, vai, ok, chiara la cosa, cambiate panacca. Sì, è bene, ha ragione. Fabio, vabbè, che ci vuoi dire? Anche lei è troppo lungo, però. Hai ragione, faccialo svelto. Una cosa velocissima, dai, su Yara. Anche oggi sono passato davanti al carcere di Bergamo e ho fatto lo slalom con l'automobile perché c'era una folla di gente, a parte giornalisti, per carità, è normale, ma tutti questi forcaioli i forcaioli, quelli che vogliono ammazzare questo qua, sulle palle, che fuori dalla macchina: assassino, brutto animale. Vabbè, questi sono degli animali peggio di quello là, dai, quelli là che vanno fuori senza avere un cazzo da fare a dire animale a quello, sono peggio di quello. No, peggio di quello magari, no. Fanno pure peggio, per carità, è no, peggio non parte. Fanno però basta di andare là a rompere i coglioni, a gridare animale, bestia, ma che è sta cosa, cioè l'hanno preso, vai là a gridare animale, bestia, che cazzo serve, dai, su, non serve una mazza andare con lì il telefono che salutano la mamma, ciao mamma, sì, ho fatto lo show davanti alla televisione, imbecilli, deficienti, dai, su, smettete di fare queste buffonate. Ciao. È arrivata l'estate, bikini, sole e mare, le ragazze si preparano a brillare, spendono un occhio nella testa dall'estetista. Secondo ce l'ho pelosa. Fanculo gli stereotipi sulle riviste, ce l'ho pelosa. Allora io volevo verificare, caro Parenzo, se questa cosa era vera oppure no. Vera oppure no? Siccome... Ma in che senso verificare? No, verificare, chiedere alla diretta interessata se ha fatto un'uscita così per fare un'uscita oppure è vero, cioè se è vero che non vada all'estetista, se è vero che la preferisce in un certo modo, eccetera, eccetera. Diana del Bufalo, ciao, come stai? Ciao ragazzi, oh mio Dio, bene, grazie. Io sono del Bufalo. Sei molto? Sono una grandissima fan vostra, tutta la mia famiglia vi ascolta, siete fantastici. Allora, senti una cosa, ma a parte in famiglia che ti dicono di quello che hai scritto, di quello che hai cantato? No, per capire. No, i miei genitori sono contentissimi. No, non lo so perché chi no, Parenzo? No, sono Cruciani, sono Cruciani. Ah no, no, ma perché mio padre? No, perché mio padre mi sta parlando. No, mi sta perché papà mi parla? Non lo so, vabbè, comunque, scusate. E praticamente no, niente, so. Ma che ti dicono di queste canzoni che fai? Sono canzoni entusiasti. Sono entusiasti. Ma pure quella sul cazzo, eccetera, erano entusiasti. Certo, certo. Ma no, ma posso dire una cosa? Ma qual era quella che non... No, quella la manderemo in onda un altro giorno, ma lasciamo perdere. Guarda, no, è una cosa molto importante, sai perché? Perché in realtà sono concetti molto profondi e molto raffinati, però le di, cioè, uso queste parole scarne, sì, e a volte anche scurrili. No, ma guarda che è la stessa cosa, che le stesse accuse che fanno a noi. Utilizzi, esatto, queste parole per far capire, per arrivare al punto, diciamo. Per arrivare, esattamente. Cioè, per esempio, questa cosa sulla foresta, per esempio, che significato ha? Tanto per allora, capire. No, aspetta, questo si dice, allora no, come, da cantante, cantautrice, ok, sì, va bene, tutto quanto, ma da cantautrice è un elogio alla mia grandissima stima dei peli, e soprattutto perché in questo periodo anche gli uomini si radono, e per me questa cosa è una cosa orribile, cioè, io non so come... Ma scusa, tu ti fai ogni tanto di depili o no? Tanto per capire. Ma allora, aspetta, la zona bikini... Sì, cioè nel senso la coscia, l'interno coscia. Vabbè, ma l'interno coscia, sì, però non sopporti quelle che per esempio si rasano completamente. No, poverine, però no, è che non la trovo proprio, non è igienico, e molti mi dicono, ah Diana, ma allora fai schifo, lavate, non è igienico, ma invece è igienissimo, cioè il Padre Eterno ce l'ha dati apposta, perché è veramente molto igienico, e non è, e poi mi hanno detto pure dal punto di vista sessuale, sì. Ma perché, scusi, ma perché, che c'entra, vabbè, comunque, insomma... Ecco, ma su questo tuo padre non ha niente da ridire, su queste tue canzoni. Tuo padre è un grande ascoltatore della Zanzara. Quando tu canti La Foresta, Delfina, cerca maschio peloso e perfetto, si vuole divertire, ha voglia di cazzo, eccetera, eccetera. Quando canti queste cose qui... Mio padre si mette a ridere tantissimo. Papà, ti piacciono le mie canzoni? Sì, no, gli piacciono. Vabbè, però lo dice perché tuo padre e tua madre... Quanti anni hanno i tuoi? Papà, quanti anni hai? 56. Ah, 56. Mia madre è cantante lirica, ce n'ha 51. Pensa, cantante lirica, la figlia canta queste canzoni qua. Tua madre è cantante lirica, rabbrividisce. Invece no, perché ho dei genitori molto moderni, sono molto fortunata in questo. No, ma guarda che invece io ho analizzato il testo della canzone della signora. Sì, quale canzone? Quale canzone? Canzone questa di questa foresta, no? Sì. Allora, oggi mi sono proprio posto il problema quando tu mi hai detto quella che sarà. Dico, benissimo, allora studio il testo. Sì, sì. Effettivamente la signora del Bufalo interpreta quelle che sono le grandi questioni della modernità. Perché... Bravo. Cioè, e questo magari sono la Ma certo, sono i problemi quotidiani, sono quello delle questioni della modernità. Beh, ma allora che cosa fai lo spiritoso quando senti la parola cazzo, quando senti la parola foresta, quando senti la parola peli, che fai lo spiritoso? C'è contesto. Ma che vuol dire c'è contesto e contesto? I temi della modernità. Vabbè. Diciamo, no? Cioè, senti, ma cosa Diana, no? Cosa hai votato alle elezioni, tanto per capire se sei Purtroppo, mi dispiace, purtroppo non ho votato. A tutti così dicono. No, ti giuro, veramente io poi di politica veramente ne capisco molto poca, mi dispiace che non ho votato. Non hai votato. Senti, ci confermi che dunque tu ti limiti a una piccola ceretta sull'interno coscia, ma il resto è tutto intatto, giusto? Assolutamente sì, molti non ci credono, però sì. Allora fai un appello, ragazze, restate con la foresta. Restate con la foresta perché è bella, perché è naturale. Ti abbraccio, a presto. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ci sentiamo domani, noi Parenzo, alle 18:30. 18:30. La Zanzara, se ancora siamo in onda, Ciao. Quanti cazzi volano in questa trasmissione?